Lo studente lì fuori ha detto che noi entriamo qui dentro di giorno, quando è buio, e usciamo di sera quando è buio. Ma che vita è la nostra? Questo proforno. Allora io dico, già che ci siamo, perché non lo raddoppiamo questo cotimo? Così lavoriamo anche la domenica. Magari veniamo qui dentro anche di notte. Anzi, magari portiamo dentro anche i bambini, le donne. I bambini li sbattiamo sotto a lavorare. Le donne ci sbattono noi un panino in bocca e noi via che andiamo avanti senza staccare. Avanti, avanti, avanti. Avanti per queste 4 lire vigliacche fino alla morte. Buonasera e ben trovati in punta di pedale sul Radio Wombat, la radio del Wombato. Buonasera, buonasera carissimi e carissime. Senti come sono professional. Sono veramente prof. Allora, noi siamo, come ben sapete, su Radio Wombat, quindi se ci volete trovare wombatnoblogs.org. Probabilmente siete già lì se ci state ascoltando. Esatto, mettiamola così. State ascoltando in streaming oppure ci state ascoltando sui 13.59 in AM. A quel punto allora andate sul sito. Verissimo, io sono ancora con la tosse, come da 2 mesi a questa parte. Ma forse 3. Forse 3, sì, è vero. Ho avuto un calo, ma poi è tornata, naturalmente. E cosa volevo dire? Una cosa importante, se detto la frequenza, scriveteci. Posta Wombat @insiberia.net è il nostro indirizzo, ma noi abbiamo veramente bisogno delle vostre parole e quindi fateci sapere se vi piace, se non vi piace. Abbiamo un sacco di ospiti, prego Dani, per poi presentare. No. Allora abbiamo i nostri amici Riders, Ivan, eccolo, l'abbiamo già avuto Lorenzo. Ivan, se non sbaglio, Lorenzo, chef. Ivan lo chef lo e un chef. Altro in contumacia al telefono, esatto. Quindi gli argomenti saranno i seguenti. Sì. Riders, abbiamo un sacco di novità dal punto di vista, insomma, sia locale che anche nazionale che anche internazionale. Abbiamo altri ospiti che sono qua dietro di noi, sentirete la loro voce. Questi ospiti. E sono si muovono in città con 8 ruote sotto i piedi. A cipicchi. E sono i camionisti. Federica. Ciao a tutti, Domenico. Ok, il microfono si può anche staccare dal trebiccolo se volete. E non ci si ferma qua, quindi pattinatori urbani questa sera con noi. Non ci fermiamo qua perché avremo anche un collegamento con dei cicloturisti, tema già affrontato settimana scorsa a Denver. Esatto, avremo... Come stai? Bene, bene, per adesso bene, un po' in affanno per... sono arrivato di corsa, in ritardo. Sei arrivato in bicicletta? A piedi. Vergogna, non a è piedi. Vero, di la verità. Sono di la arrivato verità. A piedi. E la verità è che sono... È arrivato a piedi. Sì, sì, a piedi, sì. A piedi, pur dai. Di non usare la macchina, okay. Perché ero costretto a usare la macchina, allora sono venuto a piedi. E, sì, più tardi sentiremo Veronica e Leonardo, che sono 2 cicloturisti che sono in questo momento in viaggio, hanno scelto il momento adatto, cioè la neve. E niente, sono nel mondo del cicloturismo italiano. Sono molto conosciuti, hanno un blog molto frequentato e ispirano parecchia gente ad andare in bici. Gli faremo un po' di domande. Benissimo, io se siete d'accordo mando un pezzo. Vai, vai, vai. Si pezzo. Parla di produzione, così come per i Riders. We'll be right back. ghiaccia, preme con pata, schiaccia. Dopo questo bel pezzaccio dei CSI, correggimi Bricco. Sì, CSI. Che tabula rasa elettrificata, cioè CSI. Qualcuno dice CCP. E abbiamo i nostri Riders, che ecco là, hanno bentornati. Un po' di cose da dire, se no non l'avremmo chiamati. Giusto. Buonasera. Ah no, aspetta, a te non ti ho acceso, ti accendo subito. Se no, buonasera non lo dice Bricco, nessuno. Questi sono gli discorsi di Bricco. Mi volete far parlare, dite la verità. No, no, in verità ti abbiamo invitato, sì, no, ti vogliamo far parlare, dai, se no non ti invitavamo. Buonasera. Ciao, buonasera. Come stai? No, non ti vogliamo far parlare. Vabbè, sto zitto. Grazie per avermi invitato ad assistere. Ci sono un sacco di cose di cui parlare e un sacco di cose in vista. Sì, sì, decisamente. E c'è stato poco tempo fa il tavolo a Roma, a cui anche una piccola delegazione di noi rider fiorentini ha partecipato. Ricordiamo, è stato il tavolo. Qualcuno sta bussando alla porta. Ci stanno bussando. Stanno smartellando. Bussa alla porta del Wombat. Ma noi non apriamo perché siamo in diretta. Era il tavolo tra il governo, i rappresentanti delle aziende e le varie Riders Union. Beh, per dirla breve, è stato, diciamo, un tavolo completamente fallimentare dal punto di vista di noi riders, in quanto le aziende non hanno tirato fuori neanche una proposta dignitosa. Ecco, ci eravamo lasciati prima dell'estate, se non mi sbaglio, giusto? Ci eravamo lasciati... No, forse era già settembre. Sì, siamo lasciati comunque prima del tavolo l'ultima volta. Esatto, questo tavolo è il tavolo dove le aziende dovevano portare le proposte da discutere per... Anzi, dovevano, diciamo, aver già inviato. Infatti anche il modus operandi, diciamo, delle aziende è stato completamente scorretto, tanto che i riders avevano deciso di boicottare a prescindere qualsiasi proposta da parte delle aziende, in quanto loro hanno tirato fuori le proposte poco prima del tavolo, senza dare il tempo neanche di leggerle, neanche di arrivare ai Riders Union, di discutere le proposte nelle rispettive assemblee e decidere se accettarle o meno. È stato proprio un modus operandi scorretto da parte delle aziende, e infatti era stato deciso di boicottare a prescindere queste proposte, che comunque avremmo boicottato, perché sono state, diciamo, fatte... Esatto, tre proposte sono uscite. Sì, tre proposte, ma neanche una degna di nota. Allora, ecco. Sì, sono uscite tre proposte rispettivamente da My Menu, che ha proposto una retribuzione di 7 euro lorde, quindi veramente ci andate a nozze con sta roba qua. Asso Delivery, che è l'associazione che raccoglie Foodora, sì, Deliveroo, Just Eat, bla bla bla, Uber, che non sono entrate nello specifico in nessuno dei punti sollevati, e chiedono, a partire dai contratti autonomi, incentivi fiscali. Quindi fondamentalmente chiedono aiuto da parte dello Stato per pagare poco voi. Io questo lo sto leggendo dal documento uscito su Riders Union Bologna. E infine c'è quella di Domino Pizza, che è veramente infima. Quindi, queste tre proposte? Quindi niente, le proposte sono state ovviamente boicottate dai rider, e quindi cosa è stato deciso di fare? È stata convocata una prima assemblea tra le varie Riders Union di tutta Italia a Bologna, che si svolgerà tra l'altro domani. E appunto si discuterà sulle decisioni da prendere in merito a questo tavolo, e soprattutto, diciamo, come agire, cosa fare per fronteggiare, diciamo, questa proprio mancanza di tutele di garanzie che le aziende si ostinano a non offrire, a riconoscere ai propri lavoratori. Un po', Ivan, volevi aggiungere qualcosa? No, più che altro era stato anche, se non erro, portato anche l'idea del contratto subordinato, solo che la maggioranza non accetta e non accetterebbe, perché perderebbe quella, diciamo, libertà di auto-organizzazione. Loro la personale. Chiamano flessibilità. Sì, flessibilità, si chiama flessibilità, però ecco, appunto, per non perdere questa flessibilità che il rider detiene fino adesso. È una cosa un po' da discutere nel dettaglio, questa cosa lì, perché ogni azienda è diversa. Cioè, per esempio, la flessibilità, se così si può chiamare, di Glovo va solamente a favore delle aziende e non del lavoratore. Cioè, da quando è stata approvata la flessibilità nel mercato del lavoro, che è una flessibilità solo a favore di chi sfrutta, ovviamente. Soprattutto A proposito di Glovo, ne parlavi, c'è stata questa notiziona dell'acquisizione di Foodora. Da parte di Foodora. Infatti una cosa che era stata detta al tavolo era che Glovo garantisse appunto l'assunzione a tutti i lavoratori che svolgevano il mestiere di fattorino per Foodora, infatti cosa che non ha assolutamente fatto, anzi su 2000 persone sono state mandate a casa in tronco. Fondamentalmente lì come funziona? È l'app che non ti si fa più? No, semplicemente più abbiamo questi contratti a collaborazione che vengono rinnovati con una cadenza più o meno trimestrale, più o meno semestrale, semplicemente, cioè, loro è un dal punto di vista tecnico, diciamo, neanche ti licenziano, semplicemente non ti rinnovano il contratto. Quindi cosa è stato fatto? Invece di inglobarli nella nuova piattaforma, semplicemente gli è stato rinnovato il contratto, e quindi alla fine della collaborazione tutti i dipendenti di Foodora, i lavoratori di Foodora, si sono ritrovati a casa. E calcola che questo avviene anche nei contratti di subordinazione, ovvero contratto part-time o full-time. Per esempio, nel settore da dove vengo io, nella ristorazione, che cosa si fa? Per avere un continuo ricambio e per risparmiare anche sia sui contributi che su tante altre cose, si fanno questi contratti di 3 mesi, rinnovabili 3 mesi in 3 mesi, in maniera che quando io mi dovessi essere stancato del dipendente, oppure vedo che il dipendente non lavora secondo le mie direttive, o il dipendente non sta alle mie di regole, perché sono io, datore di lavoro, che decido le regole e pretendo che stia alle mie regole, io ho il potere tranquillamente, e perché la legge me lo permette, di non rinnovargli il contratto, come è successo anche a me. Cioè, vabbè, le problematiche dei rider, diciamo, sono quelle di molte categorie di lavoratori, non siamo i soli che abbiamo questo tipo di problemi sul lavoro e questa carenza anche di una presenza, magari, di più tutele, più diritti, che neanche lo Stato ci garantisce. Scusate un attimo, ci sono. Pronto? Ecco. Infatti, posso dire una cosa, nei comunicati dei riders è ben specificata questa cosa qua, cioè che la lotta che state portando avanti non è per voi, ma è per tutti, è un po' per tutte le categorie che si trovano in situazioni simili alle vostre, e non sono poche. Categorie, certo, diciamo, di lavoratori deboli, ecco, che ce ne sono. Sì. Sempre più deboli, ecco, poi sicuramente è una situazione che si sta andando ad aggravare. E, sì, però... è anche per combattere, diciamo, questo modello, diciamo, della gig economy, che sembra quasi che stia diventando un po' il lavoro del futuro, cioè che questo sistema, no, così precario, così fragile per il lavoratore, sembra quasi che stia diventando il nuovo modello, quello che le aziende puntano a far diventare il modello principale come di rapporto di lavoro, ecco. E infatti noi ci proponiamo anche di combattere proprio questo, non solo per noi radio, ma un po', ecco, per tutti. Ecco, e come vi proponete di combatterlo nello specifico nei prossimi giorni? Allora, nei prossimi giorni, in occasione del 1° di dicembre, vi sarà una mobilitazione a livello europeo delle varie Riders Union, collettivi di lavoratori che svolgono il mestiere di farci unire, eccetera, e tutti faremo qualcosa. L'assemblea di domani serve anche un po' per questo, l'assemblea si terrà a Bologna, anche, diciamo, per decidere una linea più o meno comune. Poi ognuno nelle sue città farà, diciamo, ognuno, diciamo, farà il suo, e infatti anche noi di Firenze ci stiamo già preparando in vista del 1° dicembre, che è una data davvero importante per noi. Vai, stavo dicendo, e cosa farete quindi? Faremo un corteo per le strade di Firenze, una sorta di... A piedi o in bici? In bici ovviamente. Infatti stavo per aggiungere una sorta di critical mass di soli rider che sfrecceranno per le strade di Firenze, e faremo qualcosa, ora non vi posso svelare ancora cosa, ma, diciamo, per sensibilizzare e portare l'attenzione, diciamo, ai problemi che ci riguardano. Io in questi giorni, scusa, una cosa divertente che è venuta fuori, non so se avete visto sentirete parlare di noi, ecco. Quello è poco ma sicuro. Beh, c'è stata la manifestazione SITAB a Torino. E fra i cartelloni di questa manifestazione, delle persone, avevano un cartellone: no all'anarchia delle biciclette, no all'anarchia dei riders. Quindi sono andato a indagare un po'. Praticamente c'è una pagina anti-riders, c'è una anti-ciclisti. Sono dei grandi. Non andateci, non dategli visibilità. Chi dice le cose giuste si fa i nemici molto in fretta. Sì, infatti, subito. È interessante questa cosa che era accoppiata con i SITAB, le sciure SITAB. Sì. No, simpatici davvero, no? Sono dei grandi, secondo me questi sono dei grandi. Come sì. Se voi lo fareste per divertimento. Certo, ma poi questa anarchia delle biciclette, che veramente è uno dei maggiori problemi che riguardano oggi l'Italia. Il problema sono i pattinatori. Anche i pattinatori, al primo posto le biciclette, poi al secondo i pattinatori, è chiaro. Esatto. Le folle di pattinatori nelle città, tra l'altro, perché comprano tutto. Senti, ma quindi 1° dicembre, dicevi, mobilitazione? Quindi mobilitazione e poi... poi, chiude dove? Allora, ancora dobbiamo decidere, cioè stasera tra, infatti tra... Lo vedo molto deciso, lo vedo molto deciso. No, è che mi hai colto impreparato perché proprio stasera abbiamo l'assemblea tra di noi alle 22. Quindi se qualche rider per caso sta ascoltando... Dove la fate? Ancora non lo sappiamo. Ah, ok, quindi... ok, e non ci va veramente... a decidere le cose all'ultimo, perché ci piace, no? Un po' perché siete organizzati. Sorpresa, no? Che, se no non è troppo per scontato, uno sa tutte le cose programmate, alla fine poi sono un po' noiose. E quindi se proprio stasera facciamo appunto l'assemblea per decidere come muoverci il primo di dicembre. Alcune cose ovviamente le abbiamo già decise, serve appunto per organizzarci e decidere i dettagli, come appunto dover ritrovarci e cosa fare nello specifico già lo sappiamo. Sì, serve appunto per dover ritrovarci e niente, pianificare. Ma comunque diciamo una cosa la comunque sappiamo. Comunque ci ritroveremo nel senso ovviamente in centro. E... Ah. Una cosa per il primo dicembre lo sappiamo, che c'è un menù. Ah, c'è una serata. È vero, sì, c'è una serata con un menù. Però il menù è definito a quanto ho capito. Abbiamo lo allora, chef. Allora, sì, è già definito, Allora. Come sempre sarà un menù basato sulla semplicità e sulla stagionalità. Se la volta scorsa abbiamo fatto un piatto ricco ma povero come la matriciana, questa volta faremo sempre un piatto semplice ma secondo la stagionalità, siamo in autunno e inverno e quindi l'autunno e inverno è tempo delle zucche. E lo so, quindi, vai. Allora vengo anch'io. Quindi... sfrutteremo quello che la natura ci offre, quindi un bellissimo menù a base di zucca, quindi... Gnocchi di zucca. Esatto, bravissimo. Beh. Mi hai anticipato, era proprio c'avevo quello... proprio voglia di gnocchi di beh, zucca. Beh, bellissimo. Esatto, esatto. Sarà un menù a base di gnocchi di zucca ed eventualmente anche un altro tipo di pasta, perché perfetto. C'è... L'importante è che non ci sia carne. Certo. Come? L'importante è non no, ci sia non carne. Non ci sarà la carne per chi non la vuole. Perché la zucca è un tipo di sugo che la salsa alla zucca è un tipo di sugo che si adatta un po' su tutto, noci, gorgonzola, salsiccia, addirittura bene. Con l'amaretto. Io proporrei di aprire una sottorubrica cucina dei riders, la cucina dei riders. Cucina Roof sempre qui disponibile al Ivan vostro lo servizio vedo molto preparato e molto no comunque non abbiamo detto una cosa importante che appunto dopo la mobilitazione della giornata la sera ci sarà appunto la festa alla polveriera spazio sociale presso la polveriera sì che no, sarà immagino autofinanziamento sì certo è sempre una benefit. Festa di autofinanziamento per tutto quello che stiamo per cui ci stiamo diciamo impegnando come la ciclofficina e le spese varie del collettivo mi insomma. Raccomando partecipate numerosi e soprattutto venite affamati esatto ma a memory della volta scorsa probabilmente verranno tante persone con leccandosi baffi perché era veramente ottimo e grazie detto questo probabilmente noi vi dobbiamo lasciare perché dovete andare a lavorare giusto? Esatto buon lavoro buona pedalata. Anche le foche bevono Radio Wombat. Eccola, siamo tornati. Bene, bene. Scusate i soliti problemi tecnici, ma dovreste esserci abituati, abituate tutti e tutte. È il bello della tana del Wombat. Sì, che c'è sempre qualcosa che non va. Quindi noi continuamente dobbiamo ingegnarci e autocontrollarci per far sì che tutto questo non infici sulla trasmissione. Comunque era il tizio che bussava, secondo me. Io te lo dico, era il tizio che bussava ci ha tirato il cavo della luce. Della corrente. Sì, ci sta, può essere. Bene, invece ora abbiamo due personaggi molto interessanti. Sì, molto interessanti, è la prima volta nella tana del Wombat. Sì. Buonasera, intanto. Ciao a tutti. Li vedo rigidi. Fred allora, infreddoliti. Ah, già senza ruote, non senza siamo scalzi, abituati. Si può dire scalzi? Scalzi, siete scalzi. Bene, dove li abbiamo conosciuti questi due soggettoni? Li abbiamo conosciuti alla Ciemona, che alla Ciemona, in una marea di bici, a un certo punto vediamo qualcuno che si muove su dei roller, ed erano appunto Domenico e Federica, che hanno compiuto una grande impresa quel giorno, se ne ricordo bene, l'ultimo giorno della Ciemona, sono saliti a Mondeggi. Quel giorno abbiamo avuto questa malsana idea di fare quanti chilometri saranno stati. Io non guarda, so. Sono esattamente 12 chilometri. 12 km, 12 km di cui probabilmente 10 erano in salita verso, verso un colle. E alcuni anche sterrati, fra l'altro. No, vabbè, dai, lo sterrato pure avete fatto. Certo. Certo, ma ci risparmiamo lo sterrato, noi l'abbiamo fatto apposta. Ecco, sono seri, sono seri. Insomma, oltre a questo abbiamo avuto quel giorno la fantastica idea di scegliere proprio il giorno in cui è scoppiato un diluvio universale. Quello l'ha scelto chi ha chiamato la Ciemona. Bravissimi, perché quei giorni lì. Però ci stava bene anche il temporalone. Ci stava bene il temporalone. Siamo tornati in pedalò. Perché sì, noi non avevamo le scarpe perché, insomma, differentemente dagli altri, perché scendono dalla bici e poi si finisce contenti. Quindi noi avete questi scarponi roller che poi tolti. E quindi siamo stati scalzi, ragazzi. Però è il bello dei roller. Vabbè, a Mondeggi c'era un acquario nei nostri pattini, praticamente. Aia. Ma come si fa ad andare in salita coi pattini? Ci sono diversi metodi, devo essere sincera. Generalmente metti i piedi a papera, più o meno, come se fossi un pinguino fuori dal suo habitat naturale. E inizi questa salita bella comoda. La salita a Mondeggi che non è banale, però. Poi ci sono tutti, si può dire Cristi e Madonna, certo, in radici. Certo, si può dire ci tutto. Ci sono Cristi e Madonna interiori che tu... Che ti aiuta. È uscito un articolo che a proposito di... relativo al ciclismo, alle biciclette, però credo si applichi anche ai aiuta, che migliora la resa del bestemmiare, migliora la resa dei muscoli, quindi bestemmiate sotto fatica, bestemmiate viene meglio. Sì, ora sono andati via i rider, se no glielo avrei detto anche a loro. Sì. Poi più ruote più bestemmie, quindi noi bestemmiamo più effettivamente. Voi bestemmiate quattro volte di più, probabilmente. Ruote, sì. Senti, ma quindi era la prima volta in una critical? No, allora in realtà, vabbè, noi abbiamo iniziato a pattinare un po' altrove, poi ci siamo accorti che questo movimento, se vogliamo chiamarlo così, esiste in tutta Italia ed è bellissimo. Ogni città ha gruppi di pattinatori sparsi, quindi io avevo fatto per esempio delle critiche a Milano, anche a Bari, e poi vabbè, come Ciemona è stata la prima effettivamente. Quindi immaginatevi così, questo movimento in cui ci sono tantissime persone che a volte anche si incontrano durante l'anno facendo dei raduni, chiamiamoli così, speciali per pattinatori, e quindi noi fondamentalmente passiamo tutto l'anno girando sia a Firenze sia altrove. Bello. Preferisco il pedale, preferisco pedalare, però... E com'è girare in pattini nelle città tipo Firenze? Per dire? Ecco, esatto. Com'è Firenze, Fede, da girare in pattini? Piena di San Pietrini, questo sì? Sì, è un San Pietrino. Diciamo che lì la bestemmia viene facile, ecco. E sicuramente rendiamo molto di più. Firenze. Però Firenze ha anche dei bei posti in cui pattinare. L'Arno, le Cascine. Diciamo che dentro preferiremmo l'Arno. Evitare... Dentro l'Arno. Oppure c'è... Quelle nutrie. Poi c'è Piazzale Michelangelo, che facendo la discesa... spettacolo puro. Questa cosa, io vi ho visto qualche volta in Critical Mass fare le discese, deve essere è un'emozione, c'è proprio un'adrenalina. Poi com'è la tecnica? Vi rannicchiate bassi? Esatto. E cerchi di non scivolare via, sempre bestemmiando. Io non avrei mai pensato che fosse possibile andare a Firenze con i pattini. Devo essere sincero, prima di incontrare voi mi ha sempre un po' affascinato il muoversi dei pattini, però ho sempre pensato che troppe buche, troppe San Pietrini, troppe penso cose. Che ci siano delle vie che proprio eviti alla fine, no? Sì, poi noi siamo un po' autolesionisti, quindi ci capita anche di fare il San Pietrino. No, però conosciamo i percorsi giusti ormai. Ma anche, mi immagino, aggiustamenti tecnici ci sono da fare per queste cose qua, ruote o robe così, freni. Allora, i freni hai detto un'eresia in questo lo so. Momento, perché dire era una provocazione. È come dire a uno con la BMX, capito, di mettere il freno, cioè hai detto più o meno la stessa cosa. Fisso. Sì, esatto. No, allora il freno è una delle cose più pericolose al mondo, tra l'altro, sulla pattina, perché il freno fondamentalmente non frena quanto puoi frenare tu con la tecnica di frenata. Vabbè, però adesso non stiamo qui a parlare di tecnica di pattinaggio. Però effettivamente esistono diversi tipi di pattini con diversi tipi di ruote, e quindi boh, un po' ognuno mette il setup con cui si trova meglio. Poi esistono anche diverse sottodiscipline del pattinaggio. Per esempio, non so se lo sapevate, di questa cosa interessantissima. Non sappiamo niente. Sì. Esiste il downhill sui pattini. Bello. Beh, davvero? Ma adesso vi dico una notizia carina. Ma voi lo sapevate che qui a Firenze abbiamo poco di meno che il campione del mondo di downhill, che si allena sul piazzale, Michelangelo. Cioè scende dal piazzale. Esatto. Ciao Renato. Ciao Renato. Downhill, ciao, vuol dire mettersi giù accucciato e andare giù a dritto. Ma, no, ma ci sono, ci sono i tornanti. Ci sono i tornanti e soprattutto, vabbè, vi dico giusto una cosina. Mediamente si va sugli 80 km all'ora. Spettacolo. Burda. Con qualche protezione magari. Sì, beh, un paio sì. Bisogna essere un po' fuori di testa, però ci piace. Ma senti, così. Ma rispetto al downhill con la longboard, che diciamo è una cosa che si vede spesso su internet, che è la cosa più spettacolare, no? Della discesa in longboard, del downhill in longboard, cosa cambia? Anche voi avete i guanti con le pietre? Ci sono delle protezioni. I guanti con le pietre non so se si usano nel downhill di pattinaggio. No, allora però si usano anche nel pattinaggio, però di solito sui pattini si ha una tuta un po' più completa, perché devi proteggere qualsiasi parte del corpo, perché sui pattini è diverso, non puoi saltar giù dalla tavola, devi continuare ad andare e goderti la tua morte fino in fondo. E anche caschi come quelli da moto, per intendere. Sì, sembrano praticamente i pattinatori downhill sembrano dei motociclisti con i pattini, cioè hanno la tipica tuta così col casco, col cascone. Ma tutti pieni di protezioni ovunque. E dove si fa il campionato? Dove si è fatto l'ultima volta, per dire? Allora, io non sono un grandissimo esperto di downhill perché faccio un altro stile. Però che stile fai? Allora, diciamo che io in questo periodo mi sto fissando un po' con lo stile che si chiama aggressive. Lo stile aggressive sul pattinaggio è quello in cui ora vi indovina, dai, Domenico è la persona, cioè lo vedete e dice questo non è aggressive, ora è venuto fuori questa cosa aggressive. Invece vediamo. Allora, l'aggressive sarebbe fondamentalmente andare a grindare sui muretti, andare sui pali, fare le rampe, fare le rotazioni. È un incrocio fra parkour. Ma quasi sì, effettivamente questa definizione non l'avevo mai sentita, ma parkour. Ci sta. Ah, bello, perché bello, è un po' bello. Parkour, effettivamente ci sono dei salti anche a lunga distanza, anche con di precisione. Ci sono c'è qualcosa di simile. Diciamo, il pattinaggio aggressive è come lo skate negli skatepark. Okay. I pattinatori che girano nello skatepark sono tipicamente aggressive. Okay. Cioè, sono quelli che si fanno male, ragazzi. Fondamentalmente. Ah, perché ci sono dei pattinatori che non si fanno male. Sì, quelli che fanno pattinaggio o corsa. Noi ce l'abbiamo un po' con chi fa pattinaggio corsa. Ma sono quelli che girano in tondo? Sì, sui circuiti chiusi e pattini. Sul parquet? Sì, sì. Un po' più raffinati di noi. Un po' più. E com'è la scena fiorentina? Cioè, ci sono dei posti dove vi ritrovate? Ci sono più gruppi che si distinguono solo per disciplina o per zona? Non lo so. La scena a Firenze è praticamente assente. Cioè, siamo veramente in 4 o 5 a fare aggressive, ad esempio. Già qualcuno in più per il freestyle, però devo dire che anche la città non consente di poter fare molto. Qui a Firenze mancano degli skatepark, manca un asfalto liscio su cui poter pattinare fondamentalmente. Ma gli skatepark ci sono, scusami, posso correggerti? Sì, allora ci sono, però due, uno è stato inaugurato ora, fra l'altro, dopo all'Isolotto. Solo che va fatta una differenza per quel che riguarda l'esigenza di qualcuno in skate, qualcuno in BMX, qualcuno sui pattini. Con i pattini non si può andare ovunque, perché altrimenti vai incontro a delle pendenze che non sono le tue fondamentalmente. E poi comunque quelli che sono presenti a Firenze sono Campo di Marte, ad esempio, completamente abbandonato a se stesso, con addirittura un fan box da cui sono state rimosse delle viti. Cos'è un fan box? Esatto. Un fan box è una scatola di metallo, diciamo, con una rampettina finale su cui si salta o su cui si grinda. Quindi grindare vuol dire scivolare lateralmente con il pattino. Sì, scusate. Quindi sì, magari qualche spazio c'è, però non va bene sicuramente per pattinare. Ma invece gli skate park, ad esempio, ce n'è uno a Next Emerson? Oh, allora, il discorso Next Emerson ci sta moltissimo a cuore, anche perché noi vorremmo cercare di metterci del nostro per migliorarlo ancora di più. E al contrario degli spazi fatti dal comune, fondamentalmente l'Emerson è un posto in cui davvero noi ci possiamo divertire, in cui si sta bene. Grindare a bestia. Si grinda, cioè, parere personalissimo, secondo me, vabbè, con tutto che va un pochettino aggiustato, ci cioè stiamo impegnando anche un po' noi per aggiustarlo, diciamo, il park del Next Emerson. Secondo me per adesso è più bello quello dell'ultimo che è nato all'Isolotto. Cioè i ragazzi lì che l'hanno fatto hanno fatto un lavoro bellissimo. Adesso ci stiamo impegnando a fare un po' di manutenzione e portarlo avanti. Però quello è un progetto spettacolare. Poi, i progetti che nascono in questi posti sono anche belli perché crescono con le persone che partecipano, esatto, che vi partecipano, esatto. Quindi, non sono calati dall'alto, sì. Assolutamente no, proprio direi il contrario. Quindi bene, quindi c'è anche un legame tra il pattinaggio e gli spazi sociali, certo. Mi sembra di capire. Assolutamente, è un'attività che stimola la socialità, il pattinaggio. Certo, certo, ma infatti noi abbiamo anche amici in tutta Italia, perché ci sono questi incontri che si fanno in una città o poi in un'altra, in cui la possibilità di conoscere tantissime persone che hanno la tua stessa passione, con cui puoi girare, bere e divertirti, insomma. Noi ci si fa tantissime serate sui pattini, sì. Cioè poi diventa un'occasione per bere, ragazzi. Diciamocela tutta. Per... cioè, diciamo che non potendoli rimuovere dai piedi è divertente far serata in pattini. Quindi anche quando si gira nelle altre città si fa serata in pattini, si fa casino in pattini. Ma senti, una volta i pattini, no? Avevano quattro ruote, però erano quattro ruote messe una a fianco all'altra. Il quad. Che già lo dici col tono di schifo, con un po' di insomma, no. Ma una volta erano solo quelli, no? Sì. Poi sì. Cos'è successo? Poi negli anni 90 sono nati i primi pattini inline. E, tra l'altro, aperta e chiusa i parentesi, Enrico Perano, un altro campione del mondo di downhill, è stato il primo a portare il pattinaggio in Italia. Però anche il quad è un bel tipo di pattinaggio che va dall'artistico al roller derby. Infatti qua a Firenze lo sanno i fiorentini, lo sanno i fiorentini, lo sanno, dovevano venire oggi proprio con voi le ragazze del roller derby, ma hanno avuto, verranno presto e magari speriamo di avervi anche voi, così si fa un incontro tra pattinatori. Sì, assolutamente. Io non vedo l'ora di conoscerle, perché poi cioè il roller derby, nonostante faccia parte del pattinaggio, per esempio, io lo conosco poco, perché noi, molto spesso tra persone che hanno stili diversi, non tanto ci... No. Infatti la domanda che facevo prima è appunto, fra stili diversi si crea un meccanismo, diciamo, come quello che succede probabilmente anche sugli skate, sulle bici, no? Chi fa skate park i rotafissari non vanno poco, esatto. Okay. Cioè le dinamiche sono uguali, cioè campanilismo uguali. A bestia, sì, pure tranne per me che c'è una dipendenza invece nei confronti del pattinaggio. Quindi non è detto che voi scegliate soltanto una branca, perché io mi sono appassionata davvero a tutte e sono una più bella dell'altra. Ti consentono di fare moltissime moltissime cose, dall'artistico al freestyle. Ma infatti non ti scoccia fare sempre solo una disciplina? Cioè non è bello saltare ogni tanto, cambiare? Allora, no, è bello saltare sui pattini, nel senso, no, okay. Devi saltare sui muretti, se no non sei contento. No, io non riesco più ormai. Io non ho iniziato saltando, cioè poi l'ho scoperto dopo e ormai, ragazzi, salto e basta. Cioè sto più in aria che a terra ultimamente. Quindi non lo so, io ho trovato questa strada di fissazione, come molti altri. Cioè quando si avvicinano a una di queste discipline poi fanno solo quello. Tranne veramente Fede, è una delle poche persone che conosco che viaggia con quattro paia di pattini diversi in valigia. Sì, infatti i miei viaggi non sono dei più comodi. Però non hai finito di dirci la differenza fra in linea e quad? Allora sì, il pattinaggio in linea è un pattinaggio un po' più versatile e facile da praticare rispetto al quad. Anche per i diversi stili che ci sono, un pattino inline, quindi un rollerblade per intenderci, può essere utilizzato per fare diversi tipi di cose. Il quad, quindi parliamo dei pattini con le ruote una accanto all'altra, permette sì di fare tanti tipi di cose, però sei un po' più limitato, ad esempio, per quel che riguarda le strade. Quindi con un quad fare della strada non è possibile, a meno che ci sono condizioni particolari. Deve essere proprio liscissimo. Sì, sì, sì, deve essere molto liscio, altrimenti comunque si rischia di cadere molto facilmente. Okay. E già sui pattini inline la difficoltà di percorribilità c'è sempre. Un San Pietrino con un quad non si può fare, ad esempio. Chiaro, chiaro. Ma quindi quando pattinate, ditecelo, perché anzi ditelo quando pattinate, i giorni, l'ora, dove vi ritrovate, quando possiamo ammirare, quando possiamo partecipare, quando, che ne so. Allora ragazzi, toccare. Innanzitutto sappiate che qua a Firenze abbiamo una bella scuola di pattinaggio che è la scuola di Roller Club, i quali si vedono il giovedì. E, mentre per voi altri che volete pattinare con me, Domenico, so che volete venire. Ogni giorno ci trovate per strada, ma soprattutto il mercoledì al parchino di Campo di Marte. Alle? Alle 18. Alle 18, alle parchino 18. Di Campo di... Qual è il parchino di Campo di Marte? Skate park di Campo di Marte, subito dietro lo stadio. Ok, perfetto. Allo skate park alle 18, voi dietro, dietro che significa? Dietro verso Fiesole, dietro verso Arno? Oddio, io sono di Bari. Verso Fiesole, dai. Verso Fiesole. Secondo me verso Fiesole. Ok. Comunque, dai, ce n'è uno di skate. Ce n'è due a Firenze, una all'Isolotto e una a Campo di Marte. Quindi a quella a Campo di Marte. Fate il giro dello stadio a un certo punto. Modo lo troverete. E alle 18 e poi partite? Come funziona? Dipende. Allora, generalmente noi ci incontriamo lì, si fa park. Poi le pattinate in città invece non le programmiamo perché siamo sempre sui pattini, quindi siamo sempre a giro fondamentalmente. Se ci trovate, unitevi. Ma se ti trovo mentre vai a fare la spesa, come fate? Venite con me a fare la spesa. Ma scusa, ma vi illuminate in qualche modo? Cioè, allora sì, generalmente la sera si usano delle torce, si usano delle fasce catarifrangenti. Noi siamo un po' sbadati in questo, ce le dimentichiamo quasi sempre a casa. Però è bene utilizzarle, come è bene utilizzare le protezioni per strada, per il park. Mi raccomando ragazzi, è importantissimo. E poi ci vediamo chiaramente in Critical Mass, ci trovate sempre. Quindi sempre in testa. Viva. Notare che sono sempre in testa. Bene, quindi allora, non avete indirizzi, cioè siete non avete una pagina Facebook, un posto dove contattarvi? No. No, bellissimo, però... bello, fantastico. Guarda, fantastico. Vabbè, però pattinatori di Firenze. Firenze c'è un skate. Gruppo skate. Sì, c'è un Firenze gruppo. Skate. Ci trovate lì, scriviamo sempre noi. No, ma guarda, io preferisco stimolare a presentarsi alle 18 al campino, perché mi sembra alle 18 al campino è meglio. Dai. Sì, dai. Alle 18 al campino, troppo digitale il mondo oggi. Troppo vediamoci digitale al campino, il mondo, esatto. E basta. Non è così difficile fare un passettino indietro su questo tipo di comunicazione. Sappiamo, abbiamo un appuntamento, presentiamoci. Dai, forza, presentatevi. Cosa diamo in omaggio? Diamo qualcosa in omaggio? Cosa date in omaggio? A proposito, ma come si deve venire? Con dei roller? Con dei pattini in linea, anche quad, per chi non ce li avesse, e si vede un po'. Ecco, ma una persona che vuole iniziare a pattinare, va bene, cosa avete dei consigli da dare per venire a pattinare con voi? Cioè, chi mi deve comprare, che ne so, io c'avevo i roller, ma quelli col freno, per l'appunto, quando ero negli anni 90, che ero un ragazzetto. Aia. Però, allora, consigliateci, dai. Allora, sicuramente se non avete mai indossato un paio di pattini, va benissimo un pattino di Decathlon per iniziare. Consiglio a tutti vivamente di smontare il freno che avete dietro sul tallone, non lo utilizzate per favore, perché altrimenti finite di testa a terra, insomma. Perché è un freno che non frena, ma anzi vi fa cadere, insomma. Vi fa inciampare. E poi ve lo insegniamo noi come si frena esattamente, però intanto quello lo togliamo. Protezioni sempre e tante luci, mi raccomando, che adesso che arriva anche l'avete, Natale, sì, noi diamo il cattivo esempio. Portate un po' di luci in più. Bene. Sì, se ce le a volete proposito, lasciare. Sì, di frenate, una piccola curiosità, anche le frenate sono un'altra disciplina a parte del pattinaggio. Ma pure qua c'è lo skidding. Ci sono i campionati di slide, no? È vero, ho visti, bellissimi. Esistono... centinaia di tipi di frenate probabilmente, quindi. Posso lanciare un altro appuntamento, ragazzi? Dai, Sappiate che qua in Italia abbiamo una delle più grandi pattinate di Natale, che è la pattinata dei Babbi Natali di Firenze, alla quale partecipano l'anno scorso. Carina. Partecipano un sacco di pattinatori da tutta Italia, la più famosa, la più importante, e ci si vede il 9 dicembre alle Pavoniere, cioè all'interno delle cascine, e da lì si parte per un giro tutti insieme. Bello. Io come dicevamo, ci si ubriaca anche, quindi. E Babbi Natali, cioè, vorrei sottolinearlo di nuovo. Babbi perché... Natali, ubriachi sui pattini. Mi sembra proprio top. Cioè, meglio di così, ragazzi. Come destabilizzare questo cazzo di Natale che ormai è diventato una... Scusate. l'attacco proprio di odio consumistico. Anticonsumismo. Pezzaccio? Pezzaccio, vedo... intanto sì, intanto vi faccio sentire cosa c'è sotto. Questo è Giancane e non ve lo perdete stasera. Non ce lo perdiamo. Che è alla Flog con Zero Calcare e io ci vado, tra l'altro. Sì. Questo è Adotta un fascista. Ma una bella, bella, bella ipocondria non la mettiamo? Renato. Allora, no, non ho ipocondria, però ho una canzone per i ragazzi dei fatti. Ah sì, allora qual è? Peccato, vecchie cameriere obese in fuga con in mano una bottiglia di spumante, spaventate per l'entrata scena inconsapevole ed isterica di una piccola mantide. È un peccato, tutti i barboncini della zona intossicati da marmitelle senza di vestiame e del loro sterco profumato ma inquinato da chimici prodotti già inventati che poi furono vietati per essere inseriti nel mercato già scontato. Essere inseriti nel mercato già scontati. Sai tu che cos'è? Sai tu che cos'è? Ciò che in questa notte grigia assomiglia a me. Sai tu che cos'è? Sai tu che cos'è? Ciò che in questa notte grigia assomiglia a me. Sai tu che cos'è? Sai tu che cos'è? Ciò che in questa notte grigia assomiglia a me. Sai tu che cos'è? Sai tu che cos'è? Ciò che in questa notte grigia assomiglia a me. Sai tu che cos'è? Sai tu che cos'è? Ciò che questa notte grigia assomiglia a me. Sai tu che cos'è? Sai tu che cos'è? Ciò che questa notte grigia assomiglia a me. Sai tu che cos'è? Sai tu che cos'è? Ciò che questa notte grigia assomiglia a me. Sai tu che cos'è? Sai tu che cos'è? Ciò che questa notte grigia assomiglia a me. Sai tu. Eccoci di ritorno. Sì, avevo anche uno spot, ma non mi è partito. Non ti è partito. Comunque ve lo dico, dai, ve lo dico a voce. Presentazione della Scarceranda Next Emerson il 24 di novembre, cioè, se non mi sbaglio, è sabato. sabato ci sarà la presentazione della Scarcinanda. Per chi non lo sa, cos'è la Scarcinanda? È un'agenda pensata per i carcerati e con varie, insomma, varie cose molto utili a chi soggiorna fra le mura. E tutto questo naturalmente viene dato in benefit, nel senso che viene fornita gratuitamente ai carcerati e quindi viene venduta a chi invece sta fuori. Se molto carina, veramente un'ottima iniziativa, sponsorizzata da Radio Onda Rossa, penso forse proprio fatta da Radio Onda Rossa, i nostri compagni e le compagne, e quindi accorrete numerosi all'Emerson. Se volete accorrere in pattini, c'è anche uno skate park lì dietro. Con questo noi salutiamo i nostri amici e amiche pattinatrici e pattinatori. Otto ruote. Ciao belli. Ci vediamo allo skate park. Ci vediamo allo skate park alle 18, ci vediamo in Critical Mass e ci vediamo anche qui quando verranno le ragazze del Roller Derby. E ricordate che la Critical Mass è il prossimo giovedì. Vero, giovedì 29. 9? Sì, non è mercoledì 29? No, c'hai ragione. Giovedì 29, ore 18:30, ci ritrovo in Santissima Annunziata, con partenza alle 19:30. Top. Ragazzi, ciao, buona pattinata. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti. Questi sono i Calexico. Sì, belli rilassanti, bene, effettivamente. Bene. Allora, Denever. E ora passiamo alla consueta intervista telefonica che facciamo sempre, vero? Ormai non più. No, vabbè. Diciamo, la puntata sul cicloviaggio e sul viaggio ha riscosso abbastanza successo e quindi abbiamo pensato di fare una chiacchierata con due cicloviaggiatori che in questo momento sono in viaggio. Verissimo, sono in viaggio in questo momento, sono partiti da qualche giorno. Sì, sono partiti senza piani, senza cioè, piani all'avventura. Esatto, abbiamo delle domande particolari da fargli, perché comunque abbiamo parlato del 24 con la presentazione della Scarcinanda all'Emerson, ma il 24 c'è anche altre cose. C'è la manifestazione, non una di meno, contro la violenza maschile sulle donne a Roma, sarà questo sabato. E diciamo, la cosa che volevamo collegare è il viaggio, il cicloturismo, pensato anche dal punto di vista di una donna. Quindi, sì, è vero, è così perché la bicicletta è sempre uno strumento di emancipazione, però è anche vero che non è facile viaggiare in bicicletta, e forse ancora di più se si è sottoposti a molestie o a violenza maschile in genere. Verissimo, sempre stato uno strumento di emancipazione, era l'unico mezzo che potevano, anzi non potevano neanche utilizzare, quindi di fatto o stavi a casa oppure niente. Con la bicicletta invece sono state portate avanti diverse battaglie, però appunto il tema è caldissimo, perché non una di meno adesso è in mobilitazione permanente. Hanno fatto un comunicato in vista dell'assemblea del 24 e naturalmente comunicano questo, cioè siamo in uno stato di agitazione permanente. Perché? Ma chissà perché? Perché questo governo, nonostante regali il peperoncino, lo spray al peperoncino a tutte le donne, però poi nei modi di fare, nell'approccio, è estremamente sessista, con un punto di vista estremamente maschilista. E attacco alla legge 104. Esatto, 194, la legge Fillon sta andando a minare la 194, quindi le con espressioni tutto quello che ne di odio verso, ad esempio, che ha fatto Salvini alle ragazze che lo contestavano. Oggi c'è stata le offese alla ragazza, la covorante che è stata rapita in Kenya, che gliel'hanno dette di tutti i colori. Esatto. Ovviamente a sfondo sessuale. Certo, ma non ci facciamo mancare niente. Ma come bene sappiamo, non una di meno non guarda diciamo alle questioni della donna, ma con uno sguardo molto ampio, perché comunque tratta temi dell'antirazzismo, dell'antifascismo, della precarizzazione delle donne, e quindi diciamo ha veramente una visione a tutto tondo della questione. Noi naturalmente non ci occupiamo in questa trasmissione di questi temi, o almeno non come temi principali, però sicuramente ci interessa sapere come una donna invece approccia la bici, ecco, nei tempi odierni. Quindi niente, ora proviamo a fare la magia tecnologica. Esatto. Chiamiamo Veronica. Esatto, sentirete un po' di silenzio, io vi sollazzerò con nel frattempo con una chiacchierata strategica. Esatto, se per il 24 sicuramente ci sono i pullman organizzati. Pronto? Non ho di meno. Pronto, pronto? Ci senti? Senti? Eccoci. Ciao Veronica. Ciao, ti metti in vivo voi, aspetta. Vai, vai. Sentite? Sì. Più o meno sentiamo, sento bene, sentiamo. Ciao Veronica, ciao Leo. Ciao Leonardo. Ciao, ciao. Bentrovati. Allora, sì, ho fatto una veloce introduzione a Life in Travel, che è questo blog che tratta di cicloturismo e di viaggi in giro per il mondo. È tenuto da Leonardo e da Veronica. Anzi, da Veronica e da Leonardo, visto che... sembra giusto. Diamo... precedenza. E niente, come allora abbiamo una marea di domande da farvi. E prima di tutto, vabbè, adesso dov'è che siete? Siete partiti? Siete in viaggio, ci avete detto? Adesso siamo in viaggio, siamo al quinto giorno di viaggio e ci troviamo a Colico, sul lago di Como. Oh. E quindi una zona che Giuseppe conosce umida, bene. Una zona umida. Una zona umida. Esatto, però bella, molto bella. C'è una buona gelateria sul lungolago, eh? Cosa? C'è una buona gelateria sul lungolago. Ah, bene, bene, buona sapere. Andremo a scoprire domani, allora. E poi da qua proseguiremo sulla sponda del lago più occidentale, verso Menaggio e poi Lugano e via verso ovest. Bene, bene, bene, bello. Quindi da quanti giorni siete partiti? Siamo partiti da 5 giorni circa, siamo molto lenti perché abbiamo appunto Inala, che è il nostro cane, sul carrellino e quindi siamo anche molto pesanti. Poi attraverso nei giorni scorsi diciamo che non c'è stato un tempo bellissimo. Da queste si parti, sono viste foto di voi che vi avventuravate su una salita con la neve, che non ho capito quale passo fosse. Esatto, siamo andati un po' a cercarci la bufera, insomma. L'avventura. Sì, lei ha trovato noi sicuramente. E quindi dicevo, siamo partiti da casa 5 giorni fa e proseguiremo e andremo avanti per il sud Italia, insomma, per un po' di tempo. Ok, sarete nostri ospiti appena passate da Firenze, lo sapete, vero? Ah, se passate da Firenze, no, non so se... Però questo è il vostro primo viaggio senza un programma, mi sa, no? Non l'avete progettato tanto. Sì, direi che è il primo viaggio senza un programma. Ok. Bene o male in tutti i viaggi capitavano gli imprevisti e cambiavamo percorso magari strada facendo, diciamo. Però in questo caso proprio non abbiamo voluto nemmeno studiarlo un percorso, perlomeno abbiamo studiato le prime tappe, i primi chilometri, ma poi... Già ieri abbiamo cambiato strada perché abbiamo trovato una persona, un ciclista come noi, sulla strada che ci ha consigliato un altro percorso e noi abbiamo detto ma perché no, andiamo a vedere, andiamo a scoprire. Bellissimo, il vero viaggio, vero? Sì, il vero viaggio. Senti, invece volevamo fare un po' di domande a Veronica perché appunto, come anticipavamo prima, è imminente questa manifestazione che chiede il rispetto per le donne e contro la, diciamo, la violenza maschile, e noi in Punta di Pedale ci chiediamo un po' com'è andare in bici per una donna, quali sono le difficoltà e soprattutto poi in viaggio. Ora io ti leggo delle frasi. Allora, noi sappiamo che più persone hanno dichiarato che la bicicletta è stato il primo strumento di emancipazione per la donna, no? E c'è stata una grande cicloviaggiatrice, Annie Londonderry Kopchowski, spero di averlo pronunciato bene, che ha fatto il giro del mondo. Ha fatto il giro del mondo, ma non in tempi recenti, nel 1893. Cosa dissero a questa coraggiosa ragazza? Nessuna donna è in grado di compiere in 15 mesi il giro del mondo. Troppo mascolina per essere una donna. Deve essere un... Questo è becera proprio. Deve essere un eunuco travestito. Quindi gliel'hanno dette di tutti i colori. Veronica, dici tu invece com'è viaggiare e che difficoltà hai dovuto affrontare quando ti sei... Perché, fra parentesi, Leonardo e Veronica hanno fatto viaggi belli tosti in posti come il sud-est asiatico, hanno attraversato Vietnam, se non ricordo male Vietnam, Cambogia e Laos, giusto? Abbiamo fatto Thailandia, Laos, Cambogia, Indonesia e Malesia. A cipicchia. Ecco, poi paesi abbastanza critici. Lì come ti sei trovata? Come è stato pedalare? In realtà penso di essere stata abbastanza fortunata, perché non ho mai subito episodi violenti o di discriminatori. Forse non io, magari proprio nei confronti, non sono stati atti nei confronti di una donna in bici, ma più forse verso occidentali, ma atti minimi. Una volta ci è capitato, per esempio, che un signore ci ha chiesto di che religione fossimo. Noi in Malesia, immagino, no? Atei, però siamo battezzati e quindi abbiamo detto sì, siamo battezzati, e quindi ci ha fatto pagare di più perché in Malesia sono tutti musulmani. Sì, però capito, sono cose che comunque ci ridi. Ma noti differenze fra quando sei in viaggio da sola e quando sei in viaggio con Leonardo? Guarda, come diciamo sempre io e Leonardo, se viaggi in coppia o in più persone, forse è più difficile fare nuove conoscenze. Nuove conoscenze, sì, è una cosa. Vere amicizie, perché tendi comunque a stare con la ti chiudi sul gruppo, con le altre persone, a goderti insomma il viaggio semplicemente con chi stai viaggiando. Invece da solo, a me è capitato di viaggiare da sola e non... Cioè, non sei mai da solo veramente, perché a parte la curiosità che desta la tua persona in giro, insomma, in solitaria, e poi tutti comunque sono sempre molto, con me sono sempre stati molto premurosi, gentili, disponibili, hanno sempre cercato di essere accomodanti per vedere se avevo bisogno di qualcosa, se ero in difficoltà. E quindi ho sempre avuto belle esperienze. Bene, meglio così, dai. Meglio così. Sì, sì. Ecco, ma lo pensi ancora un mezzo buono per l'emancipazione femminile, oppure no? È scaduta questa cosa? Assolutamente sì. Beh, anche comunque in Italia, anche se sono stati fatti passi da giganti negli ultimi decenni, abbiamo comunque ancora una società prettamente maschilista in tutto e per tutto. Quindi pensa solo appunto nel campo della bicicletta, al Giro d'Italia. Il Giro d'Italia femminile non viene assolutamente considerato. Pensa alla mitica Alfonsina Strada, che è stata l'unica donna a fare il Giro d'Italia, e poi è stata anche lei esclusa. Ed era più forte di molti altri uomini. Quindi non c'è assolutamente uguaglianza e parità tra i generi. Una cosa un po'... Sì, dice. Sì, no, sì. Questo è un peccato. Quindi comunque stare in sala una bicicletta, ci sono per fortuna sempre anche più cicloviaggiatrici italiane che partono anche da sole, è sicuramente un bellissimo modo per dimostrare che siamo tutti uguali, insomma, non ci sono differenze. Sì, a me è successo, non so se vi capita di seguire il gruppo cicloviaggiatori su Facebook. Lì ci fu una polemica perché un tizio disse, ora non ricordo esattamente a chi, comunque è una cicloviaggiatrice italiana che è arrivata con le sue forze tranquillamente in Kazakistan o comunque in Asia centrale, ora non ricordo bene, e questo tizio gli disse, brava per essere una donna, sei stata brava, ma come fai per i problemi meccanici? Ti fai aiutare? A che fu sommerso giustamente da insulti, perché questa idea che complimenti pur essendo fosse mai una, che una donna sa mettere le mani su una bicicletta. Ma non sia mai, non sia mai. Mentre noi vi raccontiamo la storia, invece Radio Wombat si ispira a un marsupiale. E quindi questo marsupiale, che è il wombato, sta in Australia. Qualcuno è andato più o meno vicino all'Australia, vero Leonardo? Mi pare che lì è nata la tua passione per il cicloviaggio. Sì, bene, diciamo che la passione è nata molto prima, però ho fatto un giretto anche in Nuova Zelanda. L'Australia l'ho vista abbastanza, ma non dal sellino di una bici. Ma è la no, e... no... Dici, scusa. No, niente, dicevo che appunto se per vicino all'Australia intendevi la Nuova Zelanda, quella sì, l'ho girata abbondantemente in bici. Com'è? Da solo? È da solo. Sei stato molestato dai kiwi? No. Ti hanno rincorso? Beh, i kiwi sono abbastanza molestatori, ma i kiwi intesi come uccelli, perché ci sono questi uccelli strani che effettivamente mi hanno molestato, perché io avevo lasciato la bici in cima a un passo e questi uccelli, che sono pappagalli un po' sbagliato definirli pappagalli, comunque sono degli uccelli un po' strani, e io avevo lasciato del cibo all'interno di una borsa per andare a fare un trekking, e questi kiwi si sono impossessati della mia borsa e l'hanno un po' devastata per provare a mangiare il cibo. Quindi vedi che tu non so se avevi già capito che io effettivamente ero stato molestato dai kiwi. Sì. Effettivamente, sì. Sì, sì, c'è il trucco, ho letto il tuo libro, quindi... e niente, va bene. Noi ci vorremmo ogni tanto chiamarvi mentre pedalate. Poi, se effettivamente passate da Firenze, potreste fare un salto in trasmissione. Quindi si fa una chiacchierata dal vivo. Ora, adesso purtroppo abbiamo dei tempi sempre un po' stretti. Dobbiamo lasciare la linea a chi ci segue. E vi salutiamo, vi ringraziamo e buona pedalata. Buon viaggio. A voi, Ciao, ciao, buon viaggio. Ciao, ciao. Eccoci qua. Ci siamo. Li avete sentiti i nostri cicloturisti? Loro, fanno dei viaggi incredibili. Sì, hanno fatto gran bei giri. Ora vediamo cosa faranno senza una meta. Hanno detto che andranno a sud, quindi forse passeranno di qua. Mettiamo un po' di musica. Sì, allora, io forse proporrei anche un saluto in chiusura. Vi mando un pezzo in chiusura. Vai. E vi lasciamo con qualche notizuola di servizio, naturalmente. Radio Wombat non dorme mai, e quindi il palinsesto di oggi è ricco. Non vi perdete alle ore 20 l'Accademia della Brusca e alle 21:15 8 Hertz, entrambi in diretta. Mi raccomando, non perdeteveli. La programmazione Wombat la trovate come sempre sul nostro blog. Abbiamo un'app, la potete scaricare. E detto questo, vi salutiamo, direi. Denever, quando ci sentiamo? Ci sentiamo presto, il 6 dicembre si diceva, giusto? Il 6 dicembre, possiamo dare qualche anticipazione? Si parlerà sempre di tizi a cui piace saltare sui muretti, mi sa. Si va con gli amici delle BMX. Evviva. Noi esploreremo un po' la scena BMX fiorentina. Bellezza, fantastico. Signore e signori, fra due giovedì vi lasciamo con i Calexico, cumbia de donde. State wombati! I don't care. Angeles, le donne è il nostro stile, come tu ci chiama, le donne è Magdalena, I'm in the moment, le donne è, and I'm on my way, le donne è, I'm on my way, le donne è, visto, son mis canciones que no he cantado, toda la ruta, desierto azul, me lleva a ti. Siamo come le macchine, capito? Che io sono una macchina, io sono una puleggia, io sono un bulone, io sono una vite, io sono una cinta di trasmissione, io sono una pompa, la pompa è rotta, no, e non c'è più verso di aggiustare la pompa adesso.